Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi non possiamo far altro che augurare buon lavoro a Audi, a Lamborghini, al team di Sant'Agata. Aspettiamo buone notizie ulteriori anche per Borgo Panigale con la Ducati. Siamo, anche perché non ci accontentiamo mai, adesso che ho imparato a camminare mi viene voglia di correre, diceva non era proprio un poeta, ma insomma la frase funziona lo stesso anche se non era un poeta. Vabbè, correrà un'altra volta Renzi, insomma, cara ascoltatrice, cara ascoltatore, a forza di citazioni si è dimenticato anche chi stava citando in quel momento, non era un poeta, era un filosofo, Nietzsche. E comunque al di là questo era presente Renzi a un accordo importante della Lamborghini che creerà, sembra, 500 nuovi posti in Italia, poi parleremo anche di questo. Però gli argomenti principali questa sera sono naturalmente l'enorme scandalo che ancora una volta riguarda il mondo del calcio e di che ci si deve scandalizzare quando ormai veramente sembra un connubio tra calcio e malaffare, questo proprio a livello internazionale. E poi c'è la nuova sentenza che riguarda l'omicidio di Melania Rea, c'è stato uno sconto di 10 anni per Parolisi perché è stata esclusa l'aggravante della crudeltà. Ora, una domanda che si pone è appunto quando un uomo è accusato di aver ucciso con 35 coltellate sua moglie, madre tra l'altro di una bambina allora 18 mesi, c'è da chiedersi che cos'è allora la crudeltà. Ne parleremo più tardi e anche tra l'altro con il difensore di Parolisi, Biscotti, l'avvocato Biscotti. Dopodiché ci occuperemo anche del piano europeo per l'immigrazione che sta cominciando a prendere forma, bisogna solo capire se è una forma positiva o meno positiva per l'Italia, cioè se effettivamente è un progresso, un passo in più di condivisione fra i vari paesi oppure diciamo insomma è un po' una scelta al ribasso. Poi ne discuteremo, voi potete come sempre intervenire qui a Effetto Notte attraverso due canali privilegiati che sono come sempre, se va a sentire, la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio. E poi c'è il numero degli sms che è il 349-238-6666, quindi per le vostre riflessioni su questi temi che vi ho anticipato questi sono i due canali per intervenire. Direi a questo punto di partire come sempre con la sintesi della giornata. Lo scandalo che scuote la FIFA per l'inchiesta dell'FBI, 7 alti dirigenti in manette per corruzione, si parla di tangenti per 100 milioni, indagini sui mondiali, la Russia, dei mondiali della Russia e del Qatar. L'UEFA chiede intanto di rinviare le elezioni presidenziali che dovevano essere fatte venerdì. La crisi greca, Tsipras annuncia l'accordo è vicino ma la Commissione europea frena. Immigrazione secondo il piano europeo, 40.000 profughi attualmente in Italia e Grecia saranno ricollocati in Europa. Occupazione per quella giovanile, l'Italia è penultima in Europa, lo dicono i dati OCSE e Sant'Agata bolognese, l'avete appena sentito, Lamborghini investe, dovrebbe creare questo investimento 500 nuovi posti di lavoro. Regionali, resta il nodo degli impresentabili, ne abbiamo parlato anche ieri sulla legge Severino, De Luca dice Matteo è con me e Berlusconi avverte con tre regioni nostre il premier va a casa. Sicilia, voto di scambio nelle elezioni del 2012, arrestati due deputati regionali. L'omicidio di Melania Rea, sconto di pena per Parolisi, 20 anni per omicidio della moglie, esclusa l'aggravante della crudeltà, il fratello della vittima dice è stata fatta giustizia ma nessuno ce la ridarà. Stati Uniti, trovata morta, suicida probabilmente Paola Cooper, fu simbolo contro la pena capitale, fu la più giovane condannata a morte, il suo caso mobilitò il mondo. E per il ciclismo, Giro d'Italia, Modolo vince in volata, Contador in rosa. E partiamo quindi, vi dicevo, da questo nuovo ennesimo scandalo che emerge dal mondo del calcio. This really is the World Cup of fraud, and today we are issuing FIFA a red card. Questo è il sistema corrotto della Coppa del Mondo. Oggi abbiamo sanzionato la FIFA con un cartellino rosso. Il capo dell'FBI, James Comey, lancia da New York un messaggio chiaro al calcio mondiale. Siamo solo all'inizio. 3 anni di inchiesta da parte degli americani sull'assegnazione dei mondiali di Sudafrica 2010 e la connessione con l'indagine ancora in corso aperta dalle autorità elvetiche sull'assegnazione a Russia e Qatar dei mondiali 2018 e 2022. Nasce da qui il terremoto moto che scuote la FIFA e il sistema creato da Joseph Blatter, classe 36, in odore di quinta rielezione. Sette gli arrestati, tra cui i vicepresidenti FIFA, Webb delle isole Cayman e l'uruguaiano Figueiredo. Tangenti per oltre 100 milioni di dollari a drogare criteri di assegnazione di sedi, diritti TV, contratti commerciali, veicolate tramite banche americane. Da qui l'inchiesta dell'FBI basata sulle intercettazioni telefoniche. They were pretty clear. There were discussions about bribes, there were bribes paid, and then there were documents created to cover up those payments. Ne parlavano apertamente al telefono delle tangenti, dei modi per camuffarle, dei conti su cui farle pagare, spiega Lynch, ministro della giustizia americana. Una rete studiata fin nel minimo dettaglio. Complex money laundering schemes. Complessi schemi per mascherare il denaro, milioni di dollari che confluivano su conti offshore alle isole Cayman, Hong Kong e Svizzera, sottolinea ancora Kamei. Una bomba che esplode alla vigilia del congresso FIFA che venerdì potrebbe rieleggere ancora Blatter come presidente. Lui per ora non è indagato, ma gli americani sono stati chiari. Siamo solo all'inizio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi, come vi dicevo, faremo qualche riflessione in più su questo tema, su questa notizia. Passiamo alla crisi greca. Fonti di Atene parlano di un'intesa che sarebbe vicina tra la Grecia e i negoziatori, anche se dalla Commissione europea frenano un po'. Sono bastate le indiscrezioni arrivate dalla Grecia su un accordo imminente, un ci siamo quasi di Alexis Tsipras a far rimbalzare le borse europee dopo due sedute di debolezza. Sprint di Atene che ha guadagnato il 3,5%, a seguire Milano in rialzo del 2,2% con lo spread in calo sotto 130 punti base, e poi Parigi più 1,9%, Londra e Francoforte in rialzo dell'1,2%. Gli investitori sembrano quindi credere a un'intesa che impedisca la bancarotta ellenica, nonostante le dichiarazioni discordanti arrivate prima della chiusura dei mercati. Siamo alle battute finali, l'accordo è vicino, dice il premier Tsipras, frenato però subito dalla Commissione europea. Lavoriamo molto intensamente, ma ancora non ci siamo, così il vicepresidente Dombrovskis. In giornata fonti di Atene hanno parlato di una bozza di accordo a livello tecnico praticamente pronta. Cinque punti principali, un basso surplus di avanzo primario, la revisione dell'IVA, la riduzione del debito greco, un pacchetto di misure per la crescita. No invece ai tagli di spesa per 1,8 miliardi e nessuna stretta sulle pensioni, ma sui prepensionamenti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi l'emergenza immigrazione. Vi dicevo che il piano europeo per affrontare questa situazione in modo condiviso comincia a delinearsi. Aumentano i mezzi per l'agenzia Frontex, che avrà una base in Sicilia. Viene estesa l'operatività dell'operazione Triton e soprattutto i Paesi membri si faranno carico di 40.000 richiedenti asilo attualmente in Italia e in Grecia. Ma per capire, vi dicevo, se è effettivamente un passo in avanti, un progresso per condividere la questione, oppure se in realtà è soltanto un accordo al ribasso, ne parleremo tra poco poi nello spazio europeo. Comunque, fra i criteri per la ricollocazione dei migranti c'è anche il tasso di disoccupazione di un paese dove i migranti dovrebbero essere ricollocati. A questo proposito, nella classifica dell'OCSE per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, l'Italia conquista il penultimo posto davanti alla Grecia. L'Italia ha uno specifico problema di disoccupazione giovanile in aggiunta a uno più generale a causa di condizioni sfavorevoli e debolezze nel mercato del lavoro e nelle istituzioni sociali ed educative. Non può che scrivere così l'OCSE alla luce dei dati contenuti nel suo ultimo rapporto su giovani e occupazione. L'Italia è infatti il penultimo paese dell'area OCSE per occupazione giovanile. Appena il 52,8% dei giovani tra i 15 e i 29 anni lavora, contro una media dell'area pari al 73,7%. Peggio di noi fa solo la Grecia. Primi della classe invece per occupazione giovanile sono Olanda, Austria e Giappone, paesi in cui la percentuale di ragazzi occupati supera l'81%. Tornando all'Italia, a preoccupare un ulteriore dato, quello che riguarda i giovani inattivi, i cosiddetti NEET, coloro cioè che non sono né al lavoro né a scuola o in formazione. Sono in aumento, avverte l'OCSE, in tutta l'area, ma l'Italia è tra i paesi in cui sono più numerosi. Nel 2013 i NEET sono arrivati a sfiorare il 27% degli under 30. La penisola è così al quarto posto, tra i 34 paesi OCSE, per i giovani inattivi dopo Turchia, Grecia e Spagna. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Invece una buona notizia sull'occupazione, quella che vi davo con quell'audio piuttosto buffo di Renzi, è che è stata firmata appunto al Ministero dello Sviluppo l'intesa fra sindacati, governo e Lamborghini per la produzione in Italia, a Sant'Agata Bolognese, di una nuova vettura, un SUV chiamato Ursus, un investimento tra i 700 e 800 milioni di euro, così ha commentato il Presidente del Consiglio Renzi. Produrremo 3.000 2000 vetture all'anno, ha detto l'amministratore delegato di Audi, proprietaria di Lamborghini. E siamo alla campagna elettorale per le regionali, che entra ormai nell'ultima fase. Rilancia la lista dei moderati Silvio Berlusconi, con dentro Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Un fronte questo maggioritario nel paese, spiega il Cavaliere, che va aggregato per mandare a casa la sinistra. L'ex premier parla a Padova e, riferendosi al voto di domenica, dice: «Ho una speranza che possa ripetersi il miracolo del 2000, quando D'Alema, presidente del Consiglio, perse le regionali e si dimise. Così potrebbe accadere a Renzi». Il numero che io penso ponga in discussione la possibilità di Renzi di restare al governo è una nostra vittoria in tre regioni, naturalmente il Veneto, la Campania e la Liguria. Vinceremo in Veneto, ma ci saranno belle sorprese anche in Liguria, Umbria e Toscana, commenta invece Salvini, Lega, per il quale il voto di domenica sarà anche contro l'Unione Europea, che ci massacra. La Meloni, quindi, Fratelli d'Italia, che rivendica: «Nella mia lista sono tutti presentabili». Chiaro il riferimento alle polemiche sulla lista dell'antimafia rinviata a venerdì. Critico su questo anche il Movimento 5 Stelle, così Colletti. Inaccettabile tutto questo, perché ne va della democrazia partecipativa, quello di dare le informazioni che loro hanno a tutti i cittadini, così che possono fare le loro legittime scelte. Attacco infine a Renzi dal leader di Sel Vendola: «Il centrosinistra in Italia è finito, è stato sepolto dalla svolta a destra delle politiche praticate dall'attuale governo». Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Legalità, lavoro e leggerezza per arginare le polemiche sugli impresentabili e l'impasse in Campania. Matteo Renzi lancia le 3L per rispondere alla mancata rivelazione degli impresentabili da parte della commissione antimafia presieduta da Rosi Bindi della minoranza PD. Sarebbero 13 tutti campani, ma il premier risponde così: legalità, perché questo è un momento nel quale tutta la campagna elettorale è presentabili, impresentabili. Io vorrei essere molto chiaro: il Partito Democratico è il partito che ha preso e ha fatto una legge anticorruzione con pene per chi ruba che sono molto molto molto più dure di prima. Questo è il PD. Ed è proprio la Campania però a preoccupare Renzi. Il candidato governatore Vincenzo De Luca è a rischio decadenza per via della legge Severino, è infatti condannato per abuso d'ufficio in primo grado, ma il sindaco sceriffo di Salerno non si scompone. Renzi ha definito la Severino un problema superabile, confermando che chi viene scelto dai cittadini con un voto democratico potrà tranquillamente governare. Per Angelino Alfano invece, nuovo centrodestra, è inopportuno aspettare venerdì per avere i nomi degli impresentabili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E proprio ieri qui a Effetto Notte avevamo un membro della commissione antimafia del Movimento 5 Stelle, Francesco Duva, che tra l'altro ha smentito che fossero stati il Movimento 5 Stelle a far fuoriuscire quei quattro nomi. Oggi c'è stata un'ulteriore smentita. Però passiamo alla Sicilia, dove c'è un nuovo scandalo per voto di scambio che riguarda le elezioni siciliane, comunali e regionali del 2012. Tra gli arrestati, due consiglieri dell'Assemblea regionale siciliana, tuttora in carica, un ex deputato regionale. Ma ci racconta meglio Nino Amadore dalla Sicilia. Nino. Sì, si tratta di Nino Dina e Roberto Clemente, che sono quelli in carica. Buonasera intanto. Ciao Nino. L'ex deputato Franco Mineo, che tra l'altro ha avuto anche in passato altre vicende di inchieste per suoi contatti con Cosa Nostra. È un'inchiesta, insomma, se ne sapeva già qualcosa, era qualche indiscrezione era uscita sulla stampa, ma non ci si immaginava che ci fosse questo mondo dietro. È particolare la figura di Giuseppe Bevilacqua, che poi è il procacciatore, uno che si era candidato anche al Consiglio Comunale di Palermo, che non era riuscito a farsi eleggere e che gestiva pacchetti di voti in cambio di posti di lavoro, in cambio di pasta, pacchi di pasta, manco fossimo, diciamo, ancora all'immediato dopoguerra, no? Nella Napoli dell'immediato dopoguerra. E c'era tutta, aveva costruito tutta una speculazione sulla vendita di questi prodotti addirittura a chi doveva averli gratis, attraverso un'associazione. C'è mafia, c'è malaffare, insomma c'è collusione. Un'inchiesta che il procuratore ha definito squallida per le cose che sono emerse. È da approfondire tutta la vicenda, cioè, bisognerà capire, ovviamente le garanzie valgono anche in questi casi, però certamente ci sono le intercettazioni e le intercettazioni dicono parecchio. Grazie Nino Amadore, grazie Nino dalla Sicilia. E ora, a proposito dell'omicidio di Melania Rea, vi dicevo dello sconto di pena di 10 anni per Salvatore Parolisi, di questo poi parleremo con il suo avvocato e anche con un ex magistrato. Poi c'è una notizia di cronaca di poco fa, un'auto che non si ferma all'alta della polizia, un morto e 3 feriti gravi, è successo alla periferia di Roma, è morta una donna e poi sono rimaste ferite altre 3 persone, dalle prime informazioni non si esclude che nell'auto viaggiassero 2 nomadi. Poi dall'estero, Stati Uniti, è stata trovata morta in Indianapolis Paola Cooper, 45 anni, che nel 1986 fu la più giovane condannata a morte nella storia degli Stati Uniti per aver accoltellato a morte un'anziana insegnante. Era uscita dal carcere 2 anni fa in libertà condizionata per buona condotta, poi si era mobilitato un po' il mondo intero nei suoi confronti, anche Giovanni Paolo II. Per chiudere il ciclismo, l'italiano Sascha Modolo ha vinto allo sprint la 17ª tappa del Giro d'Italia di ciclismo da Tirano vicino Sondrio a Lugano in Svizzera, lunga 177 km. Lo spagnolo Contador ha conservato la maglia rosa. Vedo un ascoltatore che scrive: la macchina è Urus, il SUV. Sì, io ho sbagliato dicendo Ursus, che sembrava quasi una, ma essendo un SUV uno pensa a una cosa, un po' un nome così quasi epico, e Urus. E poi Clotilde dice al 349-238-6666: la sentenza Parolisi mi sembra un incitamento all'omicidio, tanto con tutti i vari sconti di pena, buona condotta, se si fa 10 anni è troppo. Poi vi dicevo, ne parleremo, potete continuare con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte e appunto gli sms al 349-238-6666. Aggiorniamo chi viaggia. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie piuttosto particolari stasera, perché voi facciate i vostri commenti su una, si rischia nella sentenza Parolisi magari di dire cose inopportune, e su quella del calcio, se volete, anche i non interessati al calcio, forse questo è il vero argomento, si può continuare a tollerare che il mondo sportivo legato per l'appunto al pallone sia ormai un luogo di elevatissimo malaffare, elevatissimo nel senso veramente ad altissimi livelli, e quindi non sono le scommessucce di qualcuno, piccoli stratagemmi, sono delle cose enormi. Avete sentito l'FBI che ha detto è soltanto l'inizio, non è certo la fine, andremo avanti. Di questo ne parliamo tra pochissimo. Tra poco invece affronteremo per l'appunto la nuova sentenza che c'è stata sul caso di Melania Rea. Adesso vi ricordo, mentre sappiate sempre che i vostri commenti vanno sulla pagina Facebook di Effetto Notte, scrivete lì, oppure gli sms al 349-238-6666, quali sono le notizie più importanti della giornata. Lo scandalo FIFA, per l'appunto 7 alti dirigenti in manette per corruzione. Blatter si difende, tra l'altro tra due giorni dovrebbe esserci le elezioni per rinnovare il presidente, che pare potrebbe essere ancora lui. Vediamo se questa cosa può inficiare questa riconferma. E poi, a proposito di elezioni regionali, Renzi dice il PD è la legalità, De Luca afferma Matteo è con me sulla questione della legge Severino, il Cavaliere, l'ex Cavaliere, dice con 3 regioni il Premier va via se ne conquistiamo 3. Grecia, Tsipras annuncia un accordo vicino ma la Commissione Europea frena. L'Unione Europea sta delineando il piano per l'emergenza immigrazione, trasferimenti solo per migranti arrivati dopo il 15 aprile, ne parleremo diffusamente dopo. Una buona notizia dalla FAO che dice che in 72 paesi in via di sviluppo è stata dimezzata la fame negli ultimi 10 anni. E poi negli Stati Uniti è stata trovata morta, suicida, Paola Cooper, il simbolo della lotta, fu condannata a morte a 16 anni. Sconto di pena per Parolisi è quello che affronteremo tra poco. E poi nel mondo dei marchi, Apple sorpassa Google, è di nuovo il marchio top al mondo, scendono McDonald's e Coca-Cola, resiste ma ultimo Marlboro. Dunque, parliamo di questa nuova sentenza per l'omicidio di Melania Rea. Ricordate naturalmente la vicenda di questo omicidio di cui è accusato il marito di Melania, l'ex caporal maggiore dell'esercito Salvatore Parolisi. Il 18 aprile del 2011, quando Melania aveva 29 anni, scomparve sul colle San Marco di Ascoli Piceno, nelle Marche, dove era andata per trascorrere qualche ora all'aria aperta insieme al marito Salvatore e alla figlioletta di 18 mesi. E poi il corpo venne scoperto 2 giorni dopo, il 20 aprile, in seguito a una telefonata anonima di un uomo. Risentiamola quella telefonata. Buonasera, telefono per denunciare una cosa, ascolti. Prego, dica, da dove sta chiamando lei? Teramo. Teramo dove? fermo stazione. Ascolti, Arripe, chiosco della Pineta. Arripe dove? Arripe di Civitella? Sì, chiosco della Pineta. Non so come te lo ringrazio, ma ci sta un corpo per terra. C'è un corpo per terra? Sì. Dentro al chiosco? No, poi che io stavo facendo una camminata. Ciao. Pronto? E questo corpo fu ritrovato, dall'autopsia presentava ferite d'arma da taglio, fu uccisa quindi con 35 coltellate, aveva anche una siringa conficcata sul suo corpo e questo pare, secondo poi appunto le indagini che poi ci sono state, che hanno portato all'arresto di Parolisi e alla sua condanna, che fosse stato lui a depistare con questi segni anche questa siringa. In primo grado Parolisi viene giudicato con rito abbreviato, condannato all'ergastolo nel 2012, nel 2013 arriva la sentenza di secondo grado ed è condannato a 30 anni dalla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila. Poi nel febbraio, quindi quest'anno 2015, la Cassazione annulla l'aggravante della crudeltà e chiede di ricalcolare la pena, lo impone alla Corte d'Appello di Perugia il ricalcolo della pena. Oggi c'è stato questo ricalcolo, quindi dai 30 anni che erano diventano 20, perché i giudici hanno escluso per l'appunto l'aggravante della crudeltà. Allora saluto Bruno Tinti, buonasera. Bruno, ex magistrato, giornalista, scrittore, autore di Toghe Rotte. Poi parleremo anche con l'avvocato Walter Biscotti, che è uno dei legali di Salvatore Parisi. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera Biscotti. Bruno Tinti, allora, su questa cosa dell'aggravante della crudeltà, molti, così, gente comune, si è posta la domanda: ma se non è crudeltà uccidere la propria moglie, quindi neanche uno sconosciuto, che sarebbe comunque, con 35 coltellate, tra l'altro madre della propria bambina di 18 mesi, che cos'è la crudeltà? Il problema è questo, vede, che i non giuristi non si rendono conto che ogni comportamento penalmente rilevante deve essere penalmente rilevante sotto due aspetti, non solo sotto uno. Quello oggettivo deve essere stato posto in essere. 35 coltellate, ok, ci sono. Ma poi c'è l'aspetto soggettivo. Io dovevo volere dargli 35 coltellate per farlo soffrire. Questa è la crudeltà. Facciamo un esempio. Io voglio far soffrire la mia vittima. Quindi la prendo, la lego a una sedia, a un palo, quello che vuole. La colpisco piano piano con 35 coltellate fino a che non l'uccido. Non c'è dubbio, c'è l'aggravante della crudeltà. Ma io non ci penso nemmeno ad agire con crudeltà, a farla soffrire. Io ce l'ho a morte con lei, la voglio ammazzare, punto e basta. E quindi in preda a quest'ira furibonda la colpisco con 35 coltellate, la prendo a calci, la strattono. Mi comporto oggettivamente nello stesso modo in cui si comporta quell'altro, quello che vuole agire con crudeltà. Ma non è questo il mio obiettivo. Adesso se in fatto è andata così oppure no, io questo non lo so. La Cassazione però ha ritenuto che sia andata così, che cioè questo Parolisi non volesse tormentare la sua vittima, non volesse farla stare male, voleva solo fra virgolette ovviamente, ammazzarla. Era arrabbiatissimo con lei e l'ha colpita 35 volte, ma senza prevedere questa esplicita crudeltà, questa tortura, diciamo così. Anche se diciamo che per i comuni mortali è un po' difficile questa cosa da Ma no, guardi, sa perché non è difficile? Facciamo un esempio banale. Omicidio che cos'è? La morte di uno. Certo. Un conto, ecco, per esempio, mi scusi Tinti, se avviene, tutti sono criminali quelli che uccidono, ma per esempio se uno rapina una banca e qualcuno si muove in modo imprudente e spara. No, uccide, non è questo l'esempio giusto. No, in quel caso non c'è crudeltà. Chiaro. Ma non c'entra niente, adesso stavo facendo un altro esempio. Per far capire come l'elemento soggettivo è importante, non basta solamente l'aspetto concreto. Perciò dico, l'omicidio è sempre la morte di un uomo, ma se io voglio ucciderlo, elemento soggettivo, quello è omicidio volontario. Se invece io sto andando in macchina, penso ai fatti miei e lo metto sotto, lo ammazzo, però non è un omicidio volontario, è un omicidio colposo. Vede come l'elemento soggettivo serve per qualificare diversamente un comportamento identico in un caso come nell'altro? È la stessa cosa. Quindi evidentemente questo è quello che hanno pensato i legali di Parolisi. I giudici della Cassazione. No, dico anche i legali perché poi avevano fatto ricorso, non sbaglio. Biscotti, avvocato Biscotti, giusto? Sì. Avevate chiesto che fosse levata l'aggravante. Certo. Uno dei motivi del ricorso per Cassazione che proponemmo riguardava proprio l'esclusione dell'aggravante della crudeltà, così come bene ha sottolineato il magistrato che mi ha preceduto. È un principio consolidato nella giurisprudenza che se l'omicida non infligge una sofferenza ulteriore gratuita alla propria vittima non deve sussistere questo tipo di aggravante. Era un aggravante che è importante nel quadro processuale di questo processo, perché quell'aggravante portava alla determinazione della pena con l'ergastolo. L'esclusione di questo aggravante ha consentito ai nuovi giudici, quello che è successo stamattina, un percorso aritmetico, diciamo, sostanzialmente obbligato, dove si è di fatto sostituita la pena originaria dell'ergastolo a quella di 30 anni e con lo sconto di pena per il rito abbreviato, purché si è arrivato da 3 almeno un terzo, si è arrivato a 20 anni. Anche se rimane un processo questo, noi prendiamo atto della sentenza, del giudicato di questa sentenza, rimane comunque un processo ancora pieno di ombre, pieno di punti insoluti. Voi avete fatto sentire la telefonata, ma non sappiamo ancora chi è stato, perché era sicuramente un elemento decisivo, perché chissà cosa ha visto, chissà cosa ha toccato e chissà che cosa erano elementi questi in più che potevano essere utili. E tante ombre sono rimaste su questo processo, come lei pensi che sulla scena del delitto non c'è nulla che possa ricondurre a Parolisi, mentre ci sono altri indizi come DNA femminili che sono trovati sul corpo di Melania, e questo purtroppo rimarrà. Noi abbiamo ancora speranza di continuare la battaglia processuale in sede europea con un ricorso a Strasburgo, perché riteniamo che nel processo d'appello di L'Aquila non si sono rispettate le regole del giusto processo. Perché dico questo? Perché proprio all'esito della sentenza di primo grado, leggendo le argomentazioni abbastanza discutibili, non solo dalla difesa, tant'è vero che sia il procuratore generale in corte d'appello ha di fatto una requisitoria contro questa sentenza pur chiedendo la condanna, e sia la corte d'appello di L'Aquila hanno di fatto stravolto le motivazioni della sentenza di primo grado. Proprio per questa ragione l'imputato voleva che il processo fosse tenuto a porte aperte, fosse tenuto un processo pubblico ancorché in rito abbreviato. È un diritto che viene concesso all'imputato, è uno di quei diritti che non si possono togliere all'imputato, sono quei diritti di un giusto processo, cioè il controllo pubblico dell'esercizio della giurisdizione è un principio ormai consacrato non solo nella nostra Costituzione con le nuove norme relative al giusto processo, ma soprattutto in sede europea, dove c'è una consolidata giurisprudenza che ritiene che il processo pubblico è uno dei diritti legati alla posizione processuale dell'imputato. Avvocato Biscotti, quindi quando ricorrerete, che tempi pensa ci possano essere per un riscontro in un senso o nell'altro da parte della Corte di Strasburgo? Adesso noi dobbiamo aspettare che la sentenza passa in giudicato, dopodiché proporremo questo ricorso, e se, come speriamo, proprio perché l'orientamento della Corte europea è consolidato su questo punto, ove dovesse sussistere una censura al processo Parolisi dalla parte della Corte europea di Strasburgo, noi avremo riteniamo di poter sfruttare un'eventuale sentenza europea positiva, sottolineando e valutando la possibilità di una revisione, proprio perché uno dei principi cardine consacrati in una norma anche nel giusto processo è l'udienza è pubblica a pena di nullità. Quindi è un percorso articolato, difficile, complicato, ma che noi non trascureremo. Ma c'è qualche ascoltatore che dice: devo ammettere che il nostro paese è ancora troppo maschilista, di conseguenza pure i magistrati, dice Luca da Genova. Vuole fare un ultimo commento, Bruno Tinti? Non capisco questo commento, mi interesserebbe molto capirlo. Che c'entra il maschilismo col commento giuridico sulla crudeltà? Perché evidentemente le cose sarebbero esattamente identiche se il morto fosse stato un maschio e l'imputato, il condannato, una femmina. Il principio di diritto è neutro, che c'entra con la donna, l'uomo? Probabilmente questo ascoltatore, immagino Bruno Tinti, questo ascoltatore Luca, siccome assiste ogni poco ai quelli che si chiamano ormai femminicidi anche in Europa e nel mondo, ritiene che evidentemente le pene non siano corrispondenti alla gravità. Però prima di salutarci con l'avvocato Biscotti, lei ha sentito Parolisi adesso dopo la sentenza? Beh, non l'ho potuto sentire perché essendo ristretto in un carcere non abbiamo la possibilità di comunicare. Lo abbiamo preparato a tutti gli esiti di questa udienza, che diciamo che aveva un binario molto stretto come esito e gliel'avevamo spiegato. Certamente avrà preso l'esito di questo processo attraverso i mass media, e comunque nei prossimi giorni mi recherò dal mio cliente a spiegare tutto quello che è successo e tutto quello che si potrà ancora fare. Grazie avvocato Biscotti. Prego. E grazie Bruno Tinti, grazie, buona serata. Buona serata. E vedo che continuano a scrivere gli uomini evidentemente su questo tema. C'è un altro messaggio al 349-238-6666. Sto pensando di uccidere mia moglie, ma con gentilezza magari mi danno un premio. Dice, insomma, c'è dell'ironia, diciamo. Adesso ci fermiamo per prendere una pausa di ricreazione e poi ritorniamo con altri temi. Parleremo dello scandalo del calcio e di altre notizie importanti di oggi. A dopo. Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Stanno arrivando molti messaggi sulla sentenza Parolisi, alcuni li leggerò, sono tutti contro questa sentenza, altri sono un pochino pesanti, ma insomma comunque vedo contrarietà. Michi dice: sentenza Parolisi è una vera vergogna, adesso l'avvocato ci racconterà che ci sono profondissime ragioni per aver ridotto all'acqua di rose la sentenza, tra parentesi il suo lavoro, ma non vi sono altre ragioni se non un sistema giudiziario malato e a volte colluso con coloro che andrebbero giudicati. Rosanna dice: che vergogna, mio Dio. Poi un altro messaggio al 349-238-6666. Parolisi, quante pugnalate doveva dare per essere accusato anche di crudeltà? Non è crudeltà? Allora cosa hanno deciso? Che gli è scivolato il coltello? Ma che idiozia, che schifo, scrive un altro ascoltatore. Adesso so che ammazzo, dice Giuliano, l'amministratore del condominio, mi devo fermare alla 35esima coltellata. Stefano da Bergamo scrive: giudici clown. Poi Gianluca: ma che sta dicendo? Un bucciotto, non si capisce. Lorenzo, speriamo succeda, no, questa non la leggiamo, insomma, dice a chi parla così: dura lex, sed lex. In ogni caso, diciamo, ecco, una cosa che si poteva anche chiedere a Bruno Tinti è, quindi anche in alcuni altri casi, come nella vicenda della piccola Yara, chiunque sia stato Bossetti oppure no, i magistrati dicono che hanno agito con crudeltà e sevizie, però anche lì come lo si può provare, se dipende solo dalla testimonianza di chi ha agito questo reato? Effettivamente rimane un po' sospesa questa cosa, almeno diciamo così dal mio punto di vista, considerazioni così. Adesso invece ci occupiamo di calcio, le notizie più importanti, quindi l'avete sentito, questa riduzione di pena per Parolisi, poi lo scandalo che scuote la FIFA di cui parleremo tra pochissimo, la crisi greca con Tsipras che annuncia un accordo vicino ma la Commissione europea frena, e poi per l'immigrazione di cui parleremo dopo, il piano europeo che comincia a delinearsi. Ora l'ennesimo scandalo del calcio, vi dicevo, il terremoto che riguarda la FIFA, quindi il governo del pallone mondiale, è una bufera, due giorni dal rinnovo della presidenza, tra l'altro adesso c'è l'UEFA che chiede, doveva esserci venerdì, rimandiamola, a finire in manette, tra gli altri, sono sette persone, adesso sono sette gli arresti, il vicepresidente della FIFA, Jeffrey Webb. Contro i sei, il Ministero della Giustizia americano ha formulato 47 capi di accusa che vanno dalla corruzione alla frode, al riciclaggio di denaro fino all'associazione per delinquere, alle frodi telematiche, ai reati commessi nell'arco degli ultimi 20 anni. Sentiamo che cosa dice il portavoce della FIFA. In this case, FIFA is the damaged party. In this context, FIFA is the damaged party. Sì, continua a ripetere che la FIFA è la parte lesa in questa vicenda. C'è Blatter, 79 anni, capo indiscusso del calcio mondiale, quindi della FIFA dal 1998, per ora non è indagato. Ne parliamo con Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale dell'Associazione Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile contro le Mafie, autore di Calcio Criminale. Abbiamo parlato qualche giorno fa del calcio scommesse in Italia, diciamo che il calcio non si fa mancare nulla neanche a livello internazionale, Romani? No, non si fa mancare nulla, purtroppo, perché si evince anche da questa inchiesta che siamo di fronte ad un sistema di illegalità protratto probabilmente nel tempo, quindi è probabile che ci siano stati anche elementi di contatto fra persone che dovevano controllare e che non l'hanno fatto, che si sono lasciate corrompere, e come poi l'altro elemento che trovo di unità è il fatto che si dice siamo appena all'inizio. Tuttavia, ecco, vorrei ricordare che tutto, basta quello che si è letto, anche un pezzo di questa inchiesta parte dal fatto che un giudice che era stato assunto dalla FIFA stessa per indagare su possibili sospetti di corruzione fa un'inchiesta sua interna, presenta un report e per la FIFA invece non succede niente, e questo è gravissimo. Ma Romani, scusa, spiegaci questa cosa, perché parte dall'FBI questa inchiesta? Ma, quindi dagli Stati Uniti? Sì, ma credo che sia probabilmente legato da quello che ho letto, perché ho viaggiato molto oggi, da quello che sono riuscito a leggere, è probabile anche il discorso del riciclo di denaro che sottostà a questa ipotetica accusa di corruzione, e oltre naturalmente alle frodi e quant'altro. Quindi io credo che, seguendo l'odore dei soldi, ecco, si sia arrivati anche, si sia partiti da qui, per meglio dire, per poi arrivare alle teste di ponte che sono state arrestate questa mattina. Diciamo che l'avevano attaccato varie altre volte, e questa settimana, lunedì, Blatter, il capo indiscusso, direi quasi un imperatore, ma insomma sono 17 anni che lì ci si chiede come sia possibile che sia così inamovibile. Platini già lo aveva accusato, insomma, di essere poco credibile, lo stesso Maradona lo aveva, e oggi ha detto, sentiamo cosa ha detto oggi. Y hace mucho tiempo hasta me han tratado de loco, y hoy se dijo la verdad. Dice loco, dicevano che ero pazzo, e invece oggi l'FBI ha detto la verità, l'ha postato su Facebook una foto del presidente con la scritta ladro. Allora, Blatter non è indagato, però è possibile che siano 17 anni che è lì, e l'inchiesta dice che sono 20 anni che c'è questo sistema di corruzione, di tangenti per l'assegnazione delle sedi dei mondiali, dei diritti TV. Sì, beh, certo, sono come tutti i sistemi di consolidati di potere che durano tanto nel tempo, si autoalimentano e si autoproteggono. Io poco fa ho cercato alcune cose rispetto a Blatter, e ho visto per esempio che non più tardi di 3-4 anni fa lui ebbe a dichiarare un giorno che la FIFA ha un potere maggiore addirittura della religione, no? Ecco, per tutto quello che riesce a muovere, sì, lo dichiaro proprio, ma probabile che sia così. Il nipote suo è stato messo a capo di una importante azienda qualche tempo fa che si occupa di calcio anch'essa, quindi, e poi c'è, come in alcuni casi si è verificato in Italia, sostanzialmente la compravendita del consenso, finanziando federazioni anche dei paesi cosiddetti minori, che però esprimono un voto al pari delle federazioni più importanti che, voglio dire, concorrono. C'è un altro elemento che a me fa riflettere, il fatto che a queste elezioni, che non so a questo punto se si terranno venerdì o venerdì, oppure prossimamente, ecco, negli ultimi 2-3 giorni si sono ritirati anche candidati importanti, penso all'ex calciatore Luis Figo, penso a un presidente di una federazione, se non mi sbaglio, olandese, quindi non una federazione calcistica qualunque. Ecco, quindi è probabile che laddove, diciamo, magari non si riesce ad arrivare ad acquistare il consenso, perlomeno ci siano anche elementi che spingono a dissuadere qualcuno a perseguire il discorso di poter concorrere. E il dato di fatto è però che questo sistema di potere probabilmente si è costruito nell'arco del tempo, dispensando favori, dispensando denari e corrompendo, probabilmente comprando anche chi doveva controllare e non l'ha fatto. Già, insomma, adesso vediamo appunto se viene riconfermato, perché neanche Gheddafi mi viene da dire, è stato insomma, no, tutti questi anni ci vorrebbe, certo, un autoregolamento, non lo so. Comunque, insomma, staremo a vedere. Degli incarichi, diciamo. Grazie per Paolo Romani. Grazie, buona continuazione. Ciao. Viabilità. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E rieccolo in pochi secondi. Avete sentito dello scandalo che riguarda la FIFA, manette per corruzione, 7 alti dirigenti. Adesso vediamo se c'è questo rinvio delle elezioni presidenziali che doveva esserci venerdì. Poi per le elezioni regionali entrano ormai nel vivo, si vota domenica. Grecia, Tsipras annuncia un accordo vicino, ma la Commissione europea frena un po'. Intanto c'è il piano per l'Europa, il piano europeo per l'emergenza e migrazione, di cui parleremo tra pochissimo. Europa 24 notte. Ne parliamo con Matteo Villa, ricercatore ISPI per l'area Europa. Buonasera Matteo. Buonasera a voi. Il piano dell'Unione Europea per l'immigrazione sta cominciando a prendere forma, già c'erano stati degli anticipi nelle settimane scorse, si parlava di 40.000 persone da ricollocare, 24.000 arrivate dall'Italia e 16.000 arrivate dalla Grecia da distribuire negli altri paesi europei. Sembra da una parte un'iniziativa, che sembra un progresso impensabile, appena qualche mese fa, e un successo, diciamo, della diplomazia italiana. Per invece i più critici è un accordo al ribasso, diciamo, non proprio una fregatura per l'Italia, ma una cosa del genere, ecco. Come la vede Villa? Allora, sicuramente si tratterebbe di un passo avanti, perché ci toglierebbero 26.000 richiedenti asilo e li relocherebbero ad altri paesi europei. Se consideriamo il fatto che fino all'anno scorso gli arrivi in Italia ce li tenevamo tutti noi quando non scappavano, e che nel passaggio da Mare Nostrum a Triton il numero di morti per ogni arrivo era quasi triplicato, e quindi la proposta della Commissione di triplicare i fondi per la missione, di allargare il suo raggio d'azione, è presumibile che salvi più persone, sembra un grande passo avanti. Secondo me c'è un grande ma, che è ancora più grande il fatto che la proposta non si sa neanche se andrà mai in porto. Perché deve essere approvata, chiaramente. Esatto, molti importanti paesi europei, Francia, Polonia, si sono già dichiarati contrari. Secondo me il punto è questo. Nella proposta si parla di 26.000 persone dall'Italia, siriani o eritrei, da riallocare a altri paesi europei nei prossimi 2 anni. A venerdì si parlava di un anno, quindi sono già la metà, 13.000, già la proposta è stata diluita. Inoltre, a gennaio dell'anno scorso i rifugiati in Italia erano 58.000, dopo i 170.000 arrivi del 2014 siamo saliti a 78.000 rifugiati. Altri 40.000 sono in attesa di risposta. Potenzialmente sono 60.000 in più in un anno. Se quest'anno va come l'anno scorso e gli altri paesi europei se ne prendono 13.000 all'anno, a noi ne restano 47.000 in più da gestire. Insomma, non è grandiosa la proposta. Quindi chi si attende che la proposta della Commissione possa risolvere il problema di migrazione in Italia, di sicuro resterà deluso, secondo me. Ora, in quanto tempo si dovrebbe avere questa approvazione, più o meno? Ho fatto un calcolo, Villa, tra tutti questi passaggi. Allora, intanto verso metà, a metà giugno ci sarà la riunione del Consiglio di Immigrazione dei Ministri dell'Interno e lì si parlerà proprio di questo. E poi il Consiglio europeo di giugno dovrà decidere. Poi comunque si tratta di un piano che partirà da prende insomma gli immigrati, gli richiedenti asilo arrivati da aprile di quest'anno e per due anni. Quindi si tratta di una proposta ancora non chiarissima, la Commissione sta cercando di tenere insieme tutte le anime, dai paesi recalcitranti a quelli come noi che chiedono di più. È chiaro che sarà un negoziato a ribasso e che non sappiamo cosa aspettarci dal Consiglio europeo il 26 giugno, dove probabilmente si deciderà tutto. E lì aspettiamo quella data. Grazie intanto a Matteo Villa. Grazie a voi. Grazie. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. In attesa di quella data pensiamo al presente, pensiamo che stasera c'è la finale di Europa League, c'è il nostro Dario Ricci che ci aggiorna. Come va, Dario? Sì, è un pezzo d'Europa calcistica che segna il suo primo trofeo stagionale in attesa della finale di Champions del 6 giugno a Berlino. Siamo, bella partita avversaria perché siamo all'inizio del secondo tempo e siamo sul 2-2 tra Dnipro, tra gli ucraini del Dnipro, che lo ricorderai Roberta, hanno eliminato il Napoli in semifinale. Ricordo benissimo, sì. Lo so che sei appassionata delle semifinali di Europa League, e quel Siviglia che è detentore del trofeo e che in semifinale ha eliminato la Fiorentina. Bella partita perché addirittura il Dnipro era passato in vantaggio con Kalinic al settimo, poi in due minuti l'1-2 del Siviglia firmato da Krištovjak e da Bak, e al 43esimo calcio di punizione di Rotan che ha infilato il 2-2. Quindi partita apertissima, spettacolo godibile, non tantissimo pubblico ma bello lo stesso. Invece la finale di Champions League è a giugno. Sì, dove c'è la Juventus. Il 6 giugno contro Juventus Barcellona a Berlino, sarà un sabato perché per volere di Michel Platini le finali si disputano da qualche anno il sabato e non come consuetudine passata il mercoledì, e sarà insomma partita più attesa, inutile dirlo, insomma grande spettacolo all'Olympia Stadium. Grazie caro Dario Ricci, vuoi fare un commento per caso sul fatto, su questo scandalo? So che ce l'hai lì in serbo. Sì, stiamo lavorando per i notiziari serali e poi anche per chiaramente per il GR di domattina. Di fatto era una situazione immaginabile da alcuni aspetti, Roberta, soprattutto anche un po' dal sistema di voto che Blatter ha imposto all'interno della FIFA, che ha esaltato paesi periferici o potentati locali, no? Piuttosto... per avere il consenso. Esattamente, consenso. E questo, diciamo, ci sono due punti estremi in sintesi di questa gestione: i mondiali del 2002 che videro la Corea padrona di casa insieme al Giappone arrivare sorprendentemente quarta. Ti dico un nome, Byron Moreno, l'arbitro Byron Moreno. Ah, sì, ce lo ricordiamo. Ecco, che insomma è noto ai più. E poi questa segnazione a Russia nel 2018 e Qatar nel 2022 che per motivi diversi ha lasciato a bocca aperta in molti e ha fatto arrabbiare anche tante candidate più credibili. Grazie Dario Ricci, a questo punto noi invece la bocca dobbiamo chiuderla, nel senso che sentite la sigla, ci sentiamo alle 22 giusto per gli aggiornamenti.